Mix 24 Estate di Giovanni Minoli. Bentrovati su Mix 24 Estate. Stiamo raccontando gli anni 60 con la musica e la storia, con Marina Milone e Franco Schifani. Oggi parliamo del 1967. Allora Franco, come iniziamo questo racconto? Iniziamo con una bella botta di energia. All the leaves are brown. Shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking. Ciao Franco, buongiorno. Buongiorno Marina. Beh, una bella sveglia in questo 1967. Una bella sveglia con Nancy Sinatra. Questi boots sono fatti per camminare. Poi c'è i Beach Boys con Barbara Ann. Of course, California Dreaming, Mamas and Papas. Molto international però, niente di italiano? Niente di italiano, ma comunque il disco più venduto del 1967 italiano è questo. Sorriderò se non a te. Era Fausto Leali con A chi? Eh beh, un classico, un classicissimo della musica italiana. Beh, diciamo un grande successo americano che ha avuto anche successo in Italia. Ma come americano? Questo è italiano? No, non è, assolutamente no. La versione originale di Roy Hamilton si chiamava Hurt, mi hai fatto male. Sì, sì, assolutamente. Quindi sempre... Sì, siamo sempre lì, perché guarda... Proprio nel 1967 alcuni di noi teenagers un po' più scafati hanno cominciato a capire che autori, produttori, discografici, cantanti ci avevano preso in giro, Marina. Oh, e finalmente l'avete capito, insomma, oh. Sono 6 anni che si copiava abbastanza tra i due continenti. Assolutamente, guarda, è dall'inizio degli anni 60 che noi... ragazzini ancora non scafati, purtroppo, pensavamo che certe canzoni, quelle, sai, belle italiane, che tu sentivi dice, mazza che canzoni fantastiche che abbiamo fatto noi italiani, e invece no. Non era vero assolutamente, sai perché? Beh, ascolta un po'. Ho spento già la luce, sono rimasto solo io e mi sento in mare. Il bicchiere però è mio. The room was humming harder as the ceiling flew away. Of onesti sono i Monkees, detti anche i Beatles americani, con I Am a Believer. Quella prima era Caterina Caselli con Sono Bugiarda, e poi avete riconosciuto Wider Shade of Pale dei Procol Harum, copiatissima e traduttissima dai Dick Dick, si chiamava Senza Luce. Cioè era proprio un copia e incolla. Come succede poi? Come avete scoperto questo trucco? L'abbiamo scoperto innanzitutto perché in quel periodo erano già nate le primissime riviste specializzate proprio musicali, che noi compravamo come la Bibbia, no? Tutti i sabati andiamo lì in edicola a comprare il nostro però quindi big. Lo scoprono gli appassionati, questo sì, però lo scoprono all'inizio gli appassionati, e poi anche perché cominciavano ad arrivare dall'America, dall'Inghilterra, i dischi di importazione, cioè qualcuno che si era specializzato originali quelli che proprio, cioè loro finalmente. E mi ricordo che questi dischi si trovavano, non mi chiedete perché per favore, ma si trovavano a Gallarate nel nord. C'era un negozio di dischi di importazione che per noi era la Mecca, cioè noi organizzavamo proprio delle persone che andavano lì con le valigie vuote, sì, si portavano 100.000 lire con una lista di cose da comprare. Questi partivano per Gallarate, compravano chili e chili di 33 giri a 3.000 lire l'uno, quindi era un viaggio anche abbastanza importante dal punto di vista economico, e tornavano a Roma con i nostri dischi tutti. E li ascoltavate. E li ascoltavamo, ovviamente, però... Sai che c'è? Che anche in quel periodo le case discografiche e i grossi negozi musicali si erano organizzati anche diversamente. Cosa si erano inventati? Dei booths, tipo, erano delle cabine telefoniche, chiamiamole così. I boxini. Tu entravi dentro, cioè vorrei ascoltare questo disco, ti mettevano il 45 giri, ne vorrei ascoltare un altro, ti mettevi le cuffie, ti chiudevi lì dentro e ti sentivi il disco. Ovviamente dopo aver ascoltato 7, 8, 9, 10 il proprietario diceva, cioè, questo non è un bar, non è un jukebox, abbiamo deciso cosa comprare oggi o no. Dovevi comprare, ma come... E qualcosa compravi, perché erano, cioè, poi ti prendeva, compravi. Come sceglievate i titoli da ascoltare? Li scegliamo appunto perché sentivamo questi dischi prova, diciamo, in questi boot, e poi noi facevamo il nostro elenco, mandavamo un volontario al nord a Gallarate e lui tornava con i nostri dischi, quindi era abbastanza semplice. Ma era necessario questo copia e incolla? Cioè perché avveniva? Avveniva perché le case discografiche, specialmente le majors, quelle proprio la RCA italiana e la RCA americana, questi dicevano, in Italia dicevano, l'altro anno questo disco ha avuto successo, sai che c'è? Siccome le edizioni sono nostre, siccome l'artista originale è nostro, e noi abbiamo qui un artista in Italia che lo canterebbe benissimo, sai che c'è? Facciamo la versione italiana. Quindi andavano, era proprio un accordo tra le case discografiche. Andavano sul sicuro, perché capito, un disco che andava bene in America, che è un grosso successo, sto parlando, poi lo cantava, per esempio, Fausto Leali, con quello che abbiamo sentito all'inizio di trasmissione, a chi, ed è andato primo in classifica in Italia per tutto il 1967. E intanto in Italia quell'anno nasce il Comitato per la Programmazione Economica, parolone sembra. Si programmava l'economia quell'anno, e lo Stato infatti che cercava di intervenire nelle cosiddette inefficienze del mercato, e con dei programmi di ben 5 anni. E a proposito di intervento dello Stato nell'economia, perché all'epoca era così, con l'appoggio dell'IRI nasce lo stabilimento Alfa Sud a Pomigliano, dove veniva prodotta l'Alfa Romeo. Lo ricordiamo, all'epoca è un'azienda di Stato. I televisori sono presenti nelle case di 8 italiani su 10 e la famiglia italiana ha un reddito medio anno di circa 1,5 milioni. Comunque il reddito era molto legato all'istruzione all'epoca, cioè se avevi la laurea contava. Ah, il famoso pezzo di carta valeva contava qualcosa. Che e bello. Infatti i laureati guadagnavano in media al mese circa 250.000 lire, mentre i non laureati 51.000 lire. Ecco perché i laureati avevano due televisioni in casa invece di una, sicuro. Sì, probabile. Ovviamente si viaggia sempre in auto, ascoltando la musica che ci stai raccontando. E nel 67 nasce la prima autoradio stereo nelle macchine. Una rivoluzione. Una rivoluzione totale, Marina, che bello, la musica in macchina. E l'autoradio è proprio tra gli accessori della nuova Fiat 125, questa nuova berlina della Fiat che è proprio un mito praticamente, super accessoriata, appunto l'autoradio, gli interni nuovi, il tergicristallo a comando ad intermittenza. Sì, un lusso sfrenato proprio per quell'epoca. Comunque in Italia si continua ancora quell'anno, nel 1967, a parlare di divorzio e alla Camera si discute una proposta di legge per l'introduzione del divorzio e ovviamente c'è una dura presa di posizione da parte del Papa, di Paolo VI, che pronuncia un famosissimo discorso sull'indissolubilità del matrimonio. E sempre Papa Paolo VI, quell'anno, nomina 27 nuovi cardinali. Tra questi c'è un certo Karol Wojtyla. Lo abbiamo detto, ci stiamo avvicinando al 68, gli studenti, i giovani, continuano a protestare. I giovani che non hanno niente mai da fare, vanno in piazza, occupano le scuole, si fanno crescere i capelli e si mettono i pantaloni a campana e queste ragazze con la minigonna, basta! E comunque protestano soprattutto contro la riforma dell'università del ministro dell'istruzione, quello che viene sempre preso di mira, il ministro dell'istruzione Luigi Gui. Si occupano le facoltà, è già occupata Trento, poi Pisa, Torino, Roma. Insomma, è proprio un'occupazione continua, Marina, diciamolo. L'occupazione, esatto. Ma il 1967, Franco Schipani, è sempre un anno melodico? Sì, è un anno melodico, però già un melodico un po' diverso, un po' più moderno, un po' più attuale. Però guarda, nel 1967 vengono pubblicate due canzoni che sono storiche, guarda, non mi viene neanche la parola, storiche ma anche profetiche. Addirittura. Sì, la prima è questa. Mi han detto che questa mia generazione ormai non crede in ciò che spesso ha mascherato con la fede, nei miti eterni della patria e dell'eroe, perché è venuto ormai il momento di negare tutto ciò che è falsità, le fedi fatte di abitudine e paura, una politica che solo far carriera, il perbenismo interessato, la dignità fatta di vuoto, l'ipocrisia di chi sta sempre con la ragione. Allora, questo era Dio è morto dei Nomadi. Bella. Bellissima. Pensa che quando è uscita la Rai non la trasmetteva, l'aveva proprio levata fuori dalla discoteca Rai. Quindi se non c'era in discoteca Rai, le persone che mettevano i dischi in radio non la potevo mettere perché ufficialmente non esisteva. Proprio come oggi, più o meno. Proprio come oggi. Non c'erano i dischi, ecco perché noi i dischi di importazione da fuori, ne dice questo qua di importazione non esiste, lei non si poteva mettere Jimi Hendrix, capito? E perché la Rai non l'aveva? Non ce l'aveva perché Dio è morto, ma solo dal titolo non si mette. Invece Radio Vaticana, che sentì il brano, sentì bene le parole, dice ma questa è una canzone cattolica, cioè di altissimo livello, e la programmò. Infatti andò in onda subito. Cioè il Vaticano più avanti della Rai. Più avanti, con Dio è morto, dei Nomadi. E poi mi dicevi la seconda canzone profetica del 1967. Beh, la seconda annuncia addirittura la morte della Beat Generation, la generazione Beat. Caro Beat, mi piaci tanto, sei forte perché hai portato oltre alla musica dei bellissimi colori che danno una nota di allegria in questo mondo pieno di nebbia. Però se i ragazzi che non si lavano, quelli che scappano di casa e altri che si drogano e dimenticano Dio fanno parte del tuo mondo, o cambi nome o presto finirai. Tre passi avanti e crolla il mondo, beat. Tre passi avanti e crolla il mondo beat, Adriano Celentano. Cioè che parla. Celentano parla. Già ha cominciato a parlare nel 1967. Pazzesco. Ufficiale. Sempre avanti. Ecco, Celentano se la prende proprio con alcuni aspetti negativi del beat. Primo fra questi, l'uso di stupefacenti. Però attenzione, perché nel 1967 inizia proprio in California quella che sarà sempre ricordata come The Summer of Love. L'estate dell'amore, c'è il primo grande raduno pop a Monterey. Sono arrivati e a Monterey si ascoltava tutta un'altra musica. Jimi Hendrix con Hey Joe, The Beatles, Lucy in the Sky with Diamond e Light My Fire dei Doors. E attenzione, perché è vero, ci sarà la rivoluzione in America, mica tanto è vero, perché i Doors, pensa Marina, dovevano andare a Ed Sullivan Show, che era la vetrina musicale e cinematografica della televisione americana, e il produttore disse: questa canzone non la potete cantare così, perché nella canzone Light My Fire c'è una frase che dice baby we can get much higher. Higher vuol dire un po' fuori di testa, però non si capiva bene perché. Dice, la dovete cantare in un altro modo, cioè questa piccola frasetta. I Doors dissero sì, non ti preoccupare, che poi quando la cantiamo in un modo diverso. Cosa successe? Non ci pensarono neanche, la cantarono col testo originale. Okay. E Ed Sullivan, cartellino rosso, i Doors in questa trasmissione non verranno mai più. Quindi anche in America censuravano. Sì, censuravano, Marina. E proprio nel 1967 muore uno dei più grandi rivoluzionari della storia moderna in Bolivia. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor. È il 9 ottobre del 67 e Che Guevara muore, viene ferito, catturato da un'imboscata dalle forze governative boliviane, ed è proprio qui in Bolivia che nasce il mito di Che Guevara. La guerra in Vietnam continua a far parlare e continuano infatti ancora i bombardamenti in tutto il mondo, e naturalmente aumentano le proteste a San Francisco, a New York, a Washington, con un cartello, un unico cartello: Stop Bombing. Il 5 giugno del 67 inizia la cosiddetta guerra dei sei giorni tra Israele e Egitto, e poco prima dello scoppio della guerra, il presidente egiziano Nasser e il ministro della difesa Moshe Dayan, il capo dell'esercito di Israele, parlano così. Ora cosa accadrà, presidente? Pensa che gli israeliani attaccheranno gli arabi? Siamo qui ad aspettarli, abbiamo lasciato l'iniziativa a loro. Noi li aspettiamo. Troppo tardi ed è troppo presto. Troppo tardi per una reazione immediata al blocco dello stretto di Eilat, ed è troppo presto per trarre qualsiasi conclusione sulla gestione diplomatica o del negoziato. Questo è il punto. E dopo questi discorsi, Israele occupa la penisola del Sinai, la striscia di Gaza, parte di Gerusalemme, la Cisgiordania e le alture del Golan. È un conflitto che ha conseguenze ancora oggi, il conflitto dei sei giorni. E il 2 dicembre di quell'anno Christian Barnard, un chirurgo sudafricano, effettua il primo trapianto di cuore al mondo. È una vera rivoluzione. Il paziente purtroppo non sopravviverà all'intervento, però è una rivoluzione nel mondo della medicina e Barnard diventa una vera e propria star. Riprendiamo dopo la pubblicità. Sì, Marina, dopo la pubblicità. Mix 24 estate. Bentrovati su Mix 24 Estate, siete con Marina Milone e Franco Schipani e stiamo facendo un viaggio storico e musicale negli anni 60 e oggi qui a Radio 24 è il 1967. Una delle tappe fondamentali di questo nostro viaggio è il prestigiosissimo Festival di Sanremo. Franco Schipani, chi vince quell'anno a Sanremo? Allora, abbiamo parlato del Festival di Monterey Pop in California, sì. The Summer of Love. Parliamo anche del nostro festival. Passiamo da Jimi Hendrix a... Non pensare a me, continua pure la tua strada senza mai pensare a me. Era Claudio Villa con Non pensare a me. Insomma, Jimi Hendrix e i Doors e Claudio Villa, il festival si conferma un pochino fuori dal mondo. Beh, con tutto il rispetto sempre per Claudio Villa, che è un interprete incredibile, questo festival dovremmo proprio archiviarlo, però non si può, perché il 1967, proprio quel festival, sarà sempre ricordato come l'anno in cui si suicida Luigi Tenco, che viene escluso dal festival, dalla sì. finale, con questa struggente canzone. Ciao amore, ciao. Sono, vabbè, di questa tragedia se ne sarà parlato moltissimo in quell'anno in Italia. Tantissimo, Marina, sì. Un dramma ancora non risolto, una storia ancora non risolta, fra l'altro. E il 15 aprile a Roma muore il grande Totò. Aiaiaiaia, si rifiuta di vedere il 68, il principe dei Curtis. Ma esatto, io voglio se prima, ne va così. Me ne vado. Muore alle 3 di mattina e in un'intervista poco prima di morire aveva dichiarato: chiudo in fallimento, nessuno mi ricorderà. Beh, aveva azzeccato tutto, sì, ma non questo di sicuro. No. Aveva 69 anni e noi lo vogliamo ricordare con il suo apporto nel mondo della musica, con un capolavoro, e vi facciamo ascoltare come è nato questo capolavoro. Mi ricorderà Formia. Giravo alcune scene di un film e allora su un pacchetto di sigarette scrissi i versi, poi li feci sentire al mio autista, al quale non gli piacquero, non capì niente. Alla sera poi col fischietto feci il motivo, l'aria, perché le parole stesse portano la musica, non è una cosa difficile, sa? Stiamo scrivendo femmina, tu sì, una mala femmina, dici, ma la musica, vediamo un po' come si fa, femmina, femmina. Tu sì, la mano. Capito? Capito? Femmana, tu sì una mala femmana, chi sto e chi è fatta chi ha niente, la cara mi infamità. Femmana, se tu peggio una vipera, mento stato... Eh sì, Totò con Mala femmina. Poesia pura. Poesia. Sì, però una poesia, guarda, io mi ricordo due frasi di Totò. La prima, che mi piace moltissimo, dice: lei è cretino, si informi. La seconda, che non si capisce bene cosa volesse dire, perché non l'ha capito neanche lui, secondo me è: scusa, ma tu ci hai fatto caso che muoiono sempre gli stessi? No, femmana, tu sia più bella femmana, voglio bene. E Nel mese di gennaio del 1967 nasce una storica trasmissione radiofonica, Hit Parade, condotta dal grande Lelio Luttazzi. Lelio Luttazzi presenta Hit Parade! Questa la conoscevi tu probabilmente. Ma scherzi, io uscivo da scuola all'una, io all'una e 27 davanti alla radio, perché non si... io arrivavo a casa e dicevo, che vuoi mangiare? Mangiare, devo sentire la radio! E sentivamo Lelio Luttazzi. Ma perché, dimmi solo una cosa, perché l'ascoltavi questa trasmissione? Perché le classifiche più dei dischi più venduti la settimana, scusa, ma se no di che parli la scuola poi da lunedì un prossimo cult, in poi? Insomma, un a proposito cult. Di cult, nel cinema esce Indovina chi viene a cena di Stanley Kramer, che è una magnifica rappresentazione del mondo di cui stiamo parlando, cioè dello, non solo dello scontro tra bianchi e neri, ma anche dello scontro tra genitori e figli. E se tu avessi un figlio e io che vuole protestare con te, non protesta mai, perché io se gli non glielo consiglierei di ascoltare questo discorso di questo film. Adesso parlo io. Tu hai detto che non mi vuoi insegnare come devo vivere. E finora che cosa hai fatto? Ma hai detto quali diritti ho e quali non ho, quello che ti devo per ciò che hai fatto. Ma lo sai che cosa ti dico? Che io non ti devo niente. Se con la borsa a tracolla tu avessi fatto 1 milione di miglia, avresti fatto quello che dovevi fare. Perché mi ci hai messo tu a questo mondo. E da quel giorno tu mi dovevi tutto ciò che potevi darmi, come io lo dovrò a mio figlio se ne avrò un altro. Ma io non sono tuo. Tu non puoi dirmi dove né quando io sto sbagliando, né puoi tentare di farmi vivere secondo le tue regole. E tu non sai nemmeno chi sono io, papà. Tu non sai chi sono, quali sono i miei sentimenti e cosa penso. E se te lo volessi spiegare, non ti basterebbe tutta la vita per capirlo. Tu hai 30 anni più di quelli che ho io, papà. Tu e la tua sciocca generazione credete che così come è stato per voi dovrà essere sempre. E finché tutta la vostra generazione non sarà sottoterra, non riusciremo a levarci dal groppone il vostro peso morto. Insomma, ti devi togliere dal mio groppone. Non male, si è arrabbiato il ragazzo. Sì, lo vedo un po' alterato, sono rimasto un po' così, Altro film cult che tu non hai visto. Solo 23 volte l'ho visto. Il laureato, dove nasce, diventa famoso un giovanissimo Dustin Hoffman. Senti, forse per te sarebbe più facile al buio. Signora Robinson, io proprio non posso. Che cosa? È proprio una cosa che non va. Non ti piace abbastanza? Oh no, no, signore, lei è la più affascinante degli amici dei miei genitori. Lo dico sul serio, lei mi piace tanto, però... Santa pazienza, ma se l'immagina i miei, ci pensa che cosa direbbero se ci vedessero ora qui in questa camera? Cosa direbbero? Non ne ho idea, signora, ma santa pazienza. M'hanno cresciuto, non m'hanno fatto mancare niente, non si meritano che mi comporti. Ti ci rivedi un po'? Perché questo film ti è piaciuto così tanto? Ma perché tutti quanti noi eravamo innamorati non di Catherine Ross, Ellen, la ragazza, eravamo innamorati della mamma di lei, Anne Bradford, che era per noi, vediamo un po', come te lo posso dire, la signora del piano di sotto, cioè la 43enne, 44enne, capito, che aveva la figlia che era, però insomma lei era molto più sciolta, eravamo innamorati di lei. Vabbè. È ufficiale. Ok. Mrs. Robinson, Simon e Garfunkel. E attenzione, perché questo film è stato il primo esempio di product placement nella storia, cioè importante, perché lui, Dustin Hoffman, guidava un duetto Alfa Romeo rosso. E dopo questo film, orgoglio italiano, assolutamente, ne hanno vendute migliaia in America, tant'è vero che hanno fatto un modello speciale che si chiamava Alfa Romeo The Graduate, il laureato. Quindi ha capito, insomma, è importante anche per noi, per l'industria italiana questo film. Ma a Sanremo abbiamo detto tutto, c'è qualcos'altro che mi devi dire? Sì, abbiamo detto tutto. Ecco, dopo la canzone melodica che ha vinto, dietro, immediatamente dietro, ce n'erano due, un po' più diverse, le possiamo chiamare? Ti tirano le pietre, se cacca noi ti tirano le pietre, qualunque cosa fai, dovunque te ne vai, tu sempre pietre in faccia prenderai. Allora, Antoine con pietre e i giganti con proposta. Queste Marina. Le proposte di Sanremo, quindi, ma quelli che vendevano? No, no, queste erano le proposte di Sanremo, poi quelle che hanno venduto tanto, a parte queste, sono... Beh, le facciamo ascoltare. Il cuore matto, matto da legare, che crede ancora che tu pensi a me. Non è convinto che sei andata via, che m'hai lasciato e non ritornerai. Quando dico che ti amo, credi a me. È la pura sacrosanta verità. La musica è finita, gli amici se ne vanno. Inutile serata, amore mio, ho aspettato tanto per vederti, ma non è servito a niente. Tu non devi odiarmi se lei vuole bene a me. Capita ogni giorno quello che è successo a noi. Questo è Lucio Dalla con Bisogna Saper Perdere. C'era poi Ornella Vanoni con La Musica è Finita e Tony Renis Quando Dico insomma. Che Ti Amo e Cuore Matto, per ricordare Barnard, Little Tony. Sono arrivati insomma i grandi. Sono arrivati, sì. Lucio Dalla, Ornella Vanoni. Ma fuori dall'Italia abbiamo parlato della rivoluzione dovuta anche all'esperimentazione nel mondo della droga, no? Ma c'era psichedelica, anche... la rivoluzione psichedelica. Ma c'era anche qualcosa di un po' più soft per gente più tranquilla? Beh, se li dici vuoi chiamare i tranquilli. Stones, Ruby Tuesday, Let's Spend the Night Together. Anche qui problemi con Led Sullivan Show, perché la canzone Let's Spend the Night Together, spendiamo la notte insieme, non piaceva Led Sullivan, che ha mandato i censori. Non si può dire Let's Spend the Night Together, la notte. Let's Spend Some Time Together. Un'America un po' di puritana, tempo. Quindi. Un'America, però i Rolling Stones furbi hanno visto quello che era successo ai Doors. Dice, guarda che noi qui a Led Sullivan Show per i prossimi anni dovremmo tornare. Quindi hanno cambiato il testo e infatti sono tornati tante volte a Led Sullivan Show. Si sono piegati al sistema i Rolling Stones. Oh. Cristiani, va. Ma sì, più razionali, più furbi, dai. Torniamo subito dopo la viabilità. Mix 24 estate. Ben trovati su Mix 24 estate. Allora, Franco Schipani, come si ballava quell'anno? Ah, ti è venuta la ballerinite, non l'avevo mica capito. Sì, ballerinite. Sunlight plays upon her head. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. Black is Amy Sun Loving, Spencer Davis Group, Good Vibration, Beach Boys, Happy Together, The Turtles, and Black is Black, Nero è Nero, Los Bravos. Sai perché, Marina? Perché? Perché nel 1967 anche in Italia arriva il desiderio di negritudine. Stasera mi butto, stasera mi butto con te. Stasera mi butto, Rocky Roberts, La pelle nera di Nino Ferrere, I pugni chiusi dei ribelli. E si ballava quindi, ma toglimi una curiosità, noi abbiamo visto che gli artisti andavano a Sanremo, si esibivano lì, poi al Cantagiro, al Disco per l'Estate, ma quando volevano esibirsi dal vivo, dove andavano? Guarda, chi è che vendeva dischi negli anni 60 poi non aveva veramente bisogno di andare a suonare dal vivo, perché i soldi li faceva vendendo i dischi. Oggi per esempio è il contrario, oggi dato che i dischi non si vendono più, i CD non si vendono più, sì, si vende su internet, però non sono le grosse cifre di una volta in termini di vendita, a meno che non ti chiami Rolling Stones o U2 per esempio. Allora che succede? Che i grandi artisti, ma non soltanto quelli internazionali, anche i nostrani tipo Jovanotti, Ligabue, Vasco Rossi, devono andare a suonare l'estate, infatti fanno 300-400, mezzo milione di paganti in pochi concerti perché ne hanno mentre bisogno. Mentre all'epoca bastava vado al Festival di Sanremo, divento famosissimo e vendo. E vendo i dischi, però a un certo punto c'erano dei locali molto belli, uno era la Bussola di Viareggio e l'altro era la Capannina di Forte dei Marmi, molto chic, che si potevano permettere il lusso di avere questi grandi artisti tipo Mina, Lavanoni, Adriano Celentano, eccetera, perché la gente che veniva il pubblico era molto sofisticato, era gente che aveva grandissime possibilità economiche, quindi sai, vendevano 4 bottiglie di champagne e il cachet di Mina era quindi pagato, quindi andavano lì, assolutamente, diciamo. Adesso ti faccio sentire che tipo di pubblico per esempio andava alla Capannina oppure alla Bussola di Viareggio. Siamo la coppia più bella del mondo e ci dispiace per gli altri che sono tristi perché non sanno più cos'è l'amore, il vero amore, per sempre unito dal cielo, nessuno in terra, anche se vuole, può separarlo, mai l'ha detto lui, siamo la non c'è più niente da fare, ma è stato bello sognare un grande amore sincero ed un felice futuro da vivere insieme. La coppia più bella del mondo, Claudio Mori e Adriano Celentano, e poi il nostro Bobby Solo con non c'è più niente da fare. Sai che Bobby Solo in quel periodo era giovane, bello, ricco e famoso, girava per Roma con una Jaguare, sai, quella di Diabolik, c'hai presente? Sì. Allora, lui abitava a Casalpalocco, però era ipocondriaco, allora era sempre convinto di avere qualche malattia, tutte le malattie meno il ginocchio della lavandaia, non si sa perché. La peggior cosa. Allora lui che faceva? Prendeva la macchina la notte perché si era comprato la farmacia notturna a Ostia, giustamente, cioè, e quindi lui diceva, mi sento male, oddio, scappava, correva con questa Jaguare, andava su alla farmacia notturna. dottore, mi sento male. Questo chiaramente che già sapeva che non era nulla, gli dava questa famosa aspirina che fra l'altro poi bisogno sicuramente aveva a casa e tutto passava in secondo piano. Risolto comunque il problema. Allora invece adesso ti faccio sentire chi andava al Piper di Roma oppure all'altro mondo di Rimini. Seduto in quel caffè io non pensavo a te. Giornale radio, ieri 29 settembre. Guardavo il mondo che girava intorno a me. In tal modo nella ricorrenza del 29 settembre una... Poi d'improvviso lei sorrise. Ragazzo triste di Patti Pravo e 29 settembre dell'Equipe 84. Ecco, al Piper di Roma si pagava 1200 lire d'ingresso compresa la consumazione. Alla Capannino, la bussola di Viareggio, con 1200 lire non pagavi neanche il posteggiatore, capito? Cioè, Marina, piccola differenza. Ma questo è Patti Pravo? Sì, vuoi sapere un po' di gossip? Nicoletta Strambelli fa rima con Maurizio Vannelli. Stavano i due insieme. Infatti sì, c'è uno dei grandi amori storici del pop italiano, possiamo dirlo. Poi lei ha mollato o si è fatta mollare da Maurizio Vannelli e si è messa con... Ti trovo completamente impreparata. Cioè io idea, idea. Ma fogli del dei Pooh. Insomma, dai, lo sanno tutti. Dai, un po' di gossip, Marina, su. Comunque giorno. Diventa famosa Patti Pravo quest'anno. È sì, il sì. suo anno? È il suo anno. Diventa... Io ci tengo a sottolineare quando diventano famosi. Sì, l'avevo capito. Senti, no, diventa ufficialmente la ragazza del Piper, Patti Pravo. C'erano poi artisti che riuscivano a farcela, abbiamo detto, senza esibirsi appunto in televisione o anche in questi locali. Guarda, era difficilissimo perché ancora, sai, non c'era neanche YouTube, quindi erano proprio fuori appunto. Dal mondo. Però la qualità paga, perché guarda, proprio nel 1967 due cantanti allora semi sconosciuti ce la fecero, diventarono veramente famosissimi e il loro successo continua ancora oggi. Sole, pietà per chi ti ama, Massimo Ranieri. Grandissimo, capito? Massimo Ranieri. Senta, ma senti che voci incredibili. Ecco appunto, ma come hanno fatto? Si sono fatti sentire in giro, perché poi la qualità paga. Cioè così in giro. Albano faceva il cameriere in un ristorante a Milano, poi lavorava addirittura alla Innocenti, cioè proprio alla catena di montaggio. E ce l'hanno fatta. Ce l'hanno fatta. Grandissimi. Perché, grandissimi, bravi, bravi, bravi, se lo meritano, perché sono veramente fortissimi. Senti, e sarebbe bello chiudere il 1967 con un brano dell'epoca interpretato da un giovane di oggi. Lo so, che ormai è diventata una nostra tradizione, dai. La che nostra rubrica. Allora, che cosa abbiamo tirato fuori dal cappello oggi? Io, guarda, so che dobbiamo concludere con questa canzone del Festival di Sanremo, sfortunatissima, proprio fortunatissima, di Luigi Tenco, che ciao amore, omaggio ciao. A Luigi Tenco. Omaggio a Luigi Tenco. Nell'interpretazione di... Marco Mengoni. Marco Mengoni. Bianca come il sale, il grano cresce. Ecco, Marco Mengoni, salutiamo e ci vediamo il prossimo domani. Anno, cioè domani 1968 è arrivato il 68. Oh Madonna, ciao Marina. A domani su Mix 24 Estate. Per sapere se